Se il mattino aveva compulsato con l'archivista la documentazione delle sue memorie, in quel momento, senza rendersene conto, Madame de Villeparisis ne stava saggiando il meccanismo e il sortilegio sopra un pubblico medio, rappresentativo di quello dal quale un giorno sarebbero usciti i suoi lettori. Il salotto di Madame de Villeparisis poteva essere diverso da un salotto veramente elegante dove non ci sarebbero state molte borghesi che lei usava ricevere e si sarebbero viste in compenso certe signore brillanti che Madame Leroy aveva finito con l'attirare. Ma questa sfumatura è impercettibile nelle memorie, dove alcune relazioni mediocri intrattenute dall'autrice, non presentandosi l'occasione di citarle, spariscono e la mancanza delle signore che non la frequentavano non si fa notare, giacché nello spazio forzatamente angusto offerto dalle memorie possono figurare solo poche presenze. E se queste sono personaggi principeschi e personalità storiche, la massima impressione d'eleganza che un memorialista possa dare al pubblico è bella raggiunta. A giudizio di Madame Leroy, il salotto di Madame de Villeparisis era un salotto di terz'ordine e questo giudizio di Madame Leroy faceva soffrire Madame de Villeparisis. Ma quasi nessuno oggi sa più chi fosse Madame Leroy. Il suo giudizio è svanito nel nulla, mentre il salotto di Madame de Villeparisis, frequentato dalla regina di Svezia, frequentato un tempo dal duca d'Aumale, dal duca di Broglie, da Thiers, da Montalembert, da Monsignor Dupanloup, sarà considerato uno dei più brillanti del XIX secolo da una posterità che è rimasta la stessa dai tempi d'Omero e di Pindaro e ai cui occhi l'invidiabilità del rango presuppone un'alta nascita, regale o quasi regale, e l'amicizia di sovrani, capi di Stato e uomini illustri. Ora, Madame de Villeparisis aveva un po' di tutto questo sia nel suo salotto attuale sia nei suoi ricordi, a volte lievemente ritoccati, con l'ausilio dei quali poteva prolungarlo nel passato. Inoltre, il signor di Nurpois, anche se non era in grado di restituire all'amica un'autentica posizione mondana, le portava in compenso gli statisti stranieri o francesi che avevano bisogno di lui e sapevano che il solo modo efficace di corteggiarlo consisteva nel frequentare il salotto di Madame de Villeparisis. Anche Madame Leroy, forse, conosceva quelle eminenti personalità europee. Ma da donna di classe, che evita ogni saccenteria, si guardava bene dal parlare della questione orientale ai primi ministri, così come dell'essenza dell'amore ai romanzieri e ai filosofi. L'amore, aveva risposto una volta a una signora pretenziosa che le aveva chiesto cosa pensasse dell'amore. L'amore? Lo faccio spesso, ma non ne parlo mai. Quando riceveva delle celebrità della letteratura e della politica, si accontentava, come la duchessa di Guermantes, di farle giocare a poker. E loro spesso lo preferivano alle grandi conversazioni su argomenti di vasta portata cui li costringeva Madame de Villeparisis. Ma queste conversazioni, ridicole forse per il bel mondo, hanno fornito ai ricordi di Madame de Villeparisis alcuni di quei brani scelti di quelle dissertazioni politiche che figurano altrettanto bene in un libro di memorie come in una tragedia di Corneille. D'altronde, se i salotti delle Madame de Villeparisis sono i soli a poter passare alla posterità, è perché le Madame Leroy non sanno scrivere e se anche sapessero non ne avrebbero il tempo. E se le tendenze letterarie delle Madame de Villeparisis sono all'origine del disprezzo che nutrono per loro le Madame Leroy, il disprezzo delle Madame Leroy, per contro, favorisce singolarmente le tendenze letterarie delle Madame de Villeparisis, provvedendole del tempo libero indispensabile alla carriera delle lettere. Dio, al quale piace che vi sia qualche libro ben scritto, ispira a bella posta simili disprezzi ai cuori delle Madame Leroy, sapendo bene che, se costoro invitassero a pranzo le Madame de Villeparisis, queste ultime lascerebbero senza indugio lo scrittoio e farebbero attaccare i cavalli per le 8 in punto. Subito dopo entrò, con passo lento e solenne, una vecchia, alta signora che lasciava intravedere, sotto un cappello di paglia con falda rialzata, una monumentale capigliatura bianca acconciata alla Marie Antoinette. Non sapevo, in quel momento, che si trattava di una delle 3 donne in cui era ancora possibile imbattersi frequentando la società parigina, le quali, come Madame de Villeparisis, pur essendo di grandissima nascita, si erano ridotte, per ragioni che si perdevano nella notte dei tempi e che avrebbero potuto essere rivelate, ormai, solo da qualche vecchio bellimbusto dell'epoca, a ricevere una feccia di persone che nessun altro voleva vedere. Ciascuna di queste dame aveva la sua duchessa di Germain, la sua nipote brillante che veniva da lei in visita di dovere, ma non sarebbe mai riuscita ad attirare in casa sua la duchessa di Germain di una delle altre 2. Madame de Villeparisis era molto legata a quelle 3 signore, ma non le amava. Forse la loro posizione, abbastanza analoga alla sua, gliene presentava un'immagine di cui non poteva rallegrarsi. Inoltre, inacidite, saccenti, intente a crearsi l'illusione di un salotto con la quantità di piccoli spettacoli che riuscivano a organizzare, esse sviluppavano fra loro delle rivalità che un patrimonio alquanto compromesso nel corso di un'esistenza movimentata, costringendole a far conto, ad approfittare della partecipazione gratuita di questo o quell'attore, trasformava in una sorta di lotta per la sopravvivenza. Per di più, la dama con l'acconciatura alla Marie Antoinette non poteva impedirsi di pensare, ogni volta che vedeva Madame de Villeparisis, che la duchessa di Germain non veniva ai suoi venerdì. L'unica consolazione era che a quegli stessi venerdì non mancava mai, da buona parente, la principessa di Poix, che era la sua Germain personale e non andava mai da Madame de Villeparisis, pur essendo intima amica della duchessa. Ciò non toglie che dal palazzo di Quai Malaquais ai salotti di Rue de Tournon, di Rue de la Chaise e di Faubourg Saint-Honoré, un legame non meno solido che abborrito unisse le 3 divinità decadute, sul cui capo avrei tanto voluto sapere, sfogliando un dizionario mitologico dell'alta società, quale avventura galante, quale sacrilega impertinenza avesse attirato una simile punizione. La stessa origine brillante, la stessa attuale decadenza, avevano forse una parte di rilievo nella necessità che le spingeva a odiarsi e in pari tempo a frequentarsi l'un l'altra. Inoltre, ciascuna di loro trovava nelle altre un comodo strumento per fare cortesia ai propri visitatori. Come avrebbero potuto, costoro, non credersi ammessi nel cuore stesso del Faubourg, vedendosi presentare a una dama altamente titolata la cui sorella aveva sposato un duca di Sagan o un principe di Ligne? Tanto più che, nei giornali, di questi pretesi salotti si parlava infinitamente di più che di quelli veri. Anche i nipoti, appartenenti al fior fiore, Saint-Lieu per primo, cui qualche compagno si rivolgeva per essere introdotto nel bel mondo, dicevano: «Vi porterò da mia zia Villeparisis o da mia zia X, è un salotto interessante». Sapevano soprattutto che sarebbe costato loro molta meno fatica che non far entrare gli stessi amici in casa delle nipoti o cognate eleganti delle stesse dame. Gli uomini avanti con gli anni e le giovani donne cui essi l'avevano rivelato Mi spiegarono che se nessuno riceveva quelle vecchie signore, era per l'incredibile sregolatezza della loro condotta, descrivendomela, quando obiettai che essa non preclude di solito l'eleganza, come eccedente ogni misura oggi conosciuta. La cattiva condotta di quelle solenni signore che se ne stavano tutte impalate sulle loro sedie assumeva, nella bocca dei miei informatori, proporzioni inimmaginabili, adeguate alla grandiosità delle ere preistoriche, all'epoca dei mammut. Per farla breve, quelle tre parche dai capelli bianchi, azzurri o rosa avevano dato filo da torcere a un numero incalcolabile di signori. Gli uomini d'oggi, pensavo, amplificano i vizi di quei tempi favolosi, così come i greci trasformarono in Icaro, Teseo, Ercole degli uomini non tanto diversi da quelli che, molto tempo dopo, li avrebbero divinizzati. Ma la somma dei vizi di una persona la si fa soltanto quando questa, ormai, non è più in grado di praticarli e dalla gravità del castigo sociale, che già si profila ed è il solo constatabile, si misura, si immagina, si esagera quella della colpa commessa. Nella galleria di figure simboliche costituite dalla società, le donne veramente leggere, le autentiche messaline, presentano sempre l'aspetto solenne d'una signora di almeno 70 anni altera, la quale riceve più persone che può, ma non le persone che vorrebbe. Ha un salotto evitato dalle donne, la cui condotta presta il fianco a qualche critica. Ottiene regolarmente dal Papa la sua rosa d'oro e a volte è autrice di un libro sulla giovinezza di Lamartine coronato dall'Académie française. «Buongiorno, Alix», disse Madame de Villeparisis alla dama con i capelli bianchi alla Marie Antoinette, mentre costei lanciava sui presenti uno sguardo penetrante, diretto a scoprire se vi fosse nel salotto qualche elemento che sarebbe potuto tornare utile al suo e che in tal caso avrebbe dovuto stanare lei stessa, giacché Madame de Villeparisis, di questo era sicura, sarebbe stata tanto maligna da tentare di tenerglielo nascosto. Madame de Villeparisis, in effetti, evitò accuratamente di presentarle Bloch, temendo che questi potesse far rappresentare nel palazzo di Che Malaché lo stesso spettacolino che aveva promesso a lei per il suo salotto. D'altronde, la marchesa non faceva che rendere la pariglia. La vecchia signora acconciata alla Marie Antoinette aveva offerto il giorno prima una recita di versi dell'Aristori e aveva brigato perché Madame de Villeparisis, cui aveva abilmente sottratto l'attrice italiana, ignorasse l'avvenimento fino a cose fatte. E perché non si risentisse, apprendendo la notizia dai giornali, era venuta a raccontarglielo, fingendo di non sentirsi affatto colpevole. Madame de Villeparisis, ritenendo che presentare me non comportasse gli stessi inconvenienti, fece il mio nome alla Marie Antoinette di Che Malaché. Questa, che riducendo al minimo i movimenti si sforzava di conservare nella vecchiaia quei tratti da dea di Coisevaux dai quali molti anni prima era stata sedotta la gioventù elegante e che alcuni falsi letterati celebravano tuttora in poesie a rime obbligate, e poiché d'altronde l'era divenuta abituale una certa rigidità altezzosa e compensativa, comune a tutte le persone costrette da qualche particolare disgrazia a fare continue avance, abbassò appena con maestà glaciale la testa e, voltandola subito da un'altra parte, non si occupò più di me, come se non fossi neanche esistito. Era un atteggiamento a doppio fine che sembrava voler segnalare a Madame de Villeparisis: «Vedete che per me una conoscenza in più conta ben poco e che i ragazzini non mi interessano da nessun punto di vista, razza di malalingua». Ma un quarto d'ora dopo, al momento di congedarsi, approfittò della confusione per sussurrarmi all'orecchio di andare, il venerdì successivo, nel suo palco, con una delle tre dame il cui splendido nome, lei stessa d'altronde era nata Choiseul, mi fece un effetto prodigioso. «Se non sbaglio, signore, volevate scrivere qualcosa sulla duchessa di Montmorency», disse Madame de Villeparisis allo storico della fronda con il tono un po' burbero che, a sua insaputa, increspava la squisita cortesia della marchesa per lo scontroso accartocciamento, per la fisiologia stizza della vecchiaia, se non per ostentata imitazione del piglio quasi campagnolo dell'antica aristocrazia. «Vi mostrerò il suo ritratto, l'originale della copia che è al Louvre.